24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Angelino e Letta guidano il palazzo, ci faranno il mazzo ma con gran stabilità. Ora che è finita la guerra dei vent'anni, altri nuovi danni questi due potranno far. Urca, urca, porca zozza, li va a triplicar. E vabbè, vabbè, con questo sonetto di Maurizio Crozza, ieri da Ballarò, apriamo anche oggi il nostro bar, la nostra trasmissione, la nostra 24 mattino. Sono le 6:33 minuti, buongiorno a tutti e ben ritrovati. C'è sempre la nostra Miriam Lucchetti e il nostro alpino Peter Bescapè, siamo sempre qui un po' assonnati. Oh, l'ha detto Francesca Pascale, eh? Oh, l'ha detto Francesca Pascale, non conosciamo più il sonno. Quanto la capiamo anche noi qui nella redazione di 24 mattino, dicevamo brava, brava, quanto ti capiamo, non conosciamo più il sonno, ha detto la fidanzata di Berlusconi. Apriamo il Parlamento subito, subito, dai, almeno ci facciamo un bel caffè. Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. Offre sempre la nostra Nicole Minetti, come sapete. Allora è mercoledì e il mercoledì voglio salutare la nostra grandissima Paola Saluzzi. Buongiorno. Buongiorno. I funamboli, io ogni mercoledì apro così. I funamboli, vabbè, vabbè. Brava, brava. Mi fai un po' di pubblicità, mi fai un po' di pubblicità. Bravo. Allora, allora. Grazie, bravo, complimenti e butta giù. Bravo, no, come butta giù? Ah, ci no, sono. È Luca Dini che allora è caduto. Arino, ho sentito tu, bravo, complimenti e mette giù, finito, basta. C'è Luca Dini invece è caduta la linea, adesso lo recuperiamo. Come fai un po' di pubblicità? No, dicevo, allora questo lo spieghiamo per i due, sì, che non lo sapessero. No, i 2000. Passare dalla radio alla televisione, come tu stai facendo, portando la politica e il ragionamento anche in televisione, come tu stai facendo, sì, ogni lunedì alle 21:10 su 7 Gold. Io lo dico perché voglio dire, gli amici si sostengono e quegli amici bravi a maggior ragione, una è un'operazione importante. Vabbè, e bravo, complimenti. Grazie, ti metto una musica questo di sottofondo. Dire. Grazie, grazie per la sviolinata, ti ringrazio tantissimo. No, io volevo un bombardino a quest'ora, ma ti applaude Peter Bescapè dalla regia, fa così, fa i gesti così, grande, grande Saluzzi, brava Saluzzi, ecco, si capisce, no? Questo è per iniziare il nostro mercoledì da Leoni, su cui gli argomenti sono tantissimi, tantissimi, come sempre, e ci siamo pronti. Allora, abbiamo recuperato il nostro direttore di Vanity Fair, Luca Dini, buongiorno direttore, eccoci, no. Niente, Luca, ci senti? No. Luca. Direttore. Chiamalo Paola più forte. Dili, Luca. Direttore. A parte che devo dire, Luca Dini ha sentito la voce di Paola Saluzzi e ha messo giù. Questo dobbiamo certificarlo. Adesso, così. Adesso vogliamo creare questo psicodramma radiofonico a quest'ora del mattino. Ha detto no, ancora Paola Saluzzi. Adesso sai quanti diranno, ha ragione, quella lì non la sopporta. Anzi, sta nascendo una serie di gruppi al maschile, di groupies al maschile per la nostra Paola Saluzzi quando c'è il mercoledì. E intanto, allora, Dio benedica, andiamo avanti. Sentiamo, adesso ci sente forse. Luca Dini, direttore, buongiorno. Eccoci oh, qua. Oh, direttore! Caramba, eccoci. Pensavamo, hai sentito la voce di Paola Saluzzi, hai sbattuto giù il telefono. No, sono fuori Italia e forse c'è un problema, non so. Però... Ah, sei fuori Italia, adesso siamo curiosi. Dove sei? No, sono a Parigi, niente Che hai capito, ho detto, ma sono a Parigi, sai. Capirai, sì, certo, sono a Parigi. Sono dolori, direttore, sono dolori. Allora, Parigi, allora io non volevo innescare subito un nuovo dibattito sulle carceri italiane. Io oggi proprio l'ho detto tante volte, le soluzioni più banali sembrano quelle, no? E io ho detto, ma trovato, facciamo nuove carceri, si rilancia l'edilizia, nuovi posti di lavoro, l'indotto, le cose, risolviamo il problema grave del sovraffollamento, tutto finito, tutto risolto. Ma a volte le soluzioni più semplici sembrano quelle più difficili. Paola Saluzzi, tu che fai? Ti butti in questo nuovo dibattito? Amnistia, indulto? Allora, è il dibattito più difficile e al tempo stesso. Ieri da parte di Napolitano c'è stata la missiva, la lettera più civile che potesse essere recapitata in Parlamento, civile in questo senso, proprio civica anzi addirittura dovremmo dire, non è più possibile reggere l'impatto che provano coloro che vanno in carcere e i loro parenti, e voglio ricordare quelli che ci lavorano nelle carceri. Per un paese civile non si può stare sotto il livello di umana sopportazione, se no non siamo più un paese civile. Quindi bene ha fatto Napolitano a sollevare la questione, amnistia e indulto, capiamo che cosa voglia dire, l'altra parte che gli si offre, perché se hai sbagliato devi pagare, però in che maniera? Però non 25 persone in una stanza dove dovrebbero starne 4. Questo è il problema di base, ma voglio dire, si risolve così, cioè con queste misure tampone, perché ne abbiamo parlato fino a qualche anno fa, dell'indulto è stato fatto, eccetera. Non bisogna tamponare più, bisogna fare. Poi bisogna fare l'amnistia e l'indulto ancora, poi tra 5 anni diremo, come tutte le soluzioni, quando un vaso perde dai buchi un po' di acqua, poi metti l'acqua e poi riperde l'acqua, poi la rimetti ancora, cioè è questo il concetto che non si capisce, cioè le misure che risolvono la situazione temporaneamente. Luca Dini, tu che ne pensi? Non è solo un problema di amnistia e indulto, è un problema di abuso della carcerazione preventiva, è un problema di lentezza della giustizia. In qualche modo però, cioè, voglio dire, a tutti quelli che dicono bisognerebbe pensare agli italiani onesti, inviterei ogni tanto, una volta, a farsi un giretto dentro un carcere per rendersi conto che purtroppo da quel punto di vista siamo proprio ai livelli dei paesi di cui parliamo come dittature, come paesi non civili, perché rispetto ai diritti umani comunque va garantito. Sì, certamente c'è anche qualcuno lì dentro che poi viene dimostrato innocente, ricordiamocelo. Moltissimi sono in carcerazione preventiva, la maggior parte delle persone che sono in carcere sono in attesa di giudizio, e quindi poi il giudizio magari c'è e poi vengono giudicati innocenti. Detto ciò, il prefetto Sinesio, che magari non dirà molto agli italiani, ma è colui che è il commissario straordinario delle infrastrutture carcerarie dal 2012, in un'intervista oggi al Fatto Quotidiano dice: io qualche soluzione la proporrei, per esempio a San Vittore, carcere di Milano, sapete quanto si paga di bolletta, ma perché è un disastro la rete? 2 milioni di euro all'anno. Lui dice: se noi la vendiamo come le carceri borboniche e ne ricostruiamo di nuove con nuove crediti, spendiamo meno piuttosto che ristrutturarle, eccetera. Perché non lo si ascolta? Non lo so, perché non si fanno delle nuove strutture? Ma non è che lo dico adesso in maniera ironica, l'indotto, l'edilizia. Si risolve un problema vero, e lo si risolve una volta per tutte, forse, o no, Paola? Certo. Ma vicino a casa dei miei genitori, oggi diventati appartamenti anche molto belli, c'erano le vecchie galere papali. Allora, non voglio arrivare a tanto, però... Dio benedica questo signore che dà una notizia tragica, 2 milioni di euro all'anno solo di elettricità, da quello che capisco, e soprattutto che lancia una proposta corretta. Però siamo all'anno zero, l'unica sensazione positiva alla quale io mi appelli, sempre per essere ottimista, ma di un ottimismo che non è stupido, è pensare che questo paese abbia capito che siamo all'anno zero, cioè dobbiamo ripartire, abbiamo azzerato tutto, adesso basta, adesso con l'essere i fanalini di coda, facciamoli fare ad altri, siamo l'Italia, noi siamo l'Italia, siamo un paese al quale la gente dovrebbe guardare nel mondo per civiltà, per bellezza, questo lo si fa a prescindere dalle nostre qualità, e anche per onestà comportamentale. L'onestà comportamentale significa azzerare e ricominciare da capo. L'orgoglio italico di Paola Saluzzo. No, poi c'è sempre il messaggio, arriva sempre il messaggio, ma il problema italiano sono le carceri o il lavoro? Accidenti, ma uno tutti i giorni, tutti va bene, ma è chiaro, ragazzi, che ci sono sempre... Nel 45 siamo usciti da una guerra e ce l'abbiamo fatta. Ma no, però, ma per carità, ma è chiaro che il problema è il lavoro, ma ci sono tante trasmissioni, ne parliamo del lavoro, ma non è che se uno un giorno parla di un'altra cosa vuol dire che il lavoro chi se ne frega, no, è tutto... sembra che si possa affrontare affrontare solo un problema all'anno. Esatto. Per cortesia, esatto, scusatemi, c'è problema. Stata gente che ha fatto le hit parade sui morti di Lampedusa, e allora i morti lì non se ne ricorda nessuno, e quindi i morti là non se ne ricorda, sì, nessuno. Oppure su come Twitter ho come... visto cose da drizzare i capelli. Certo, vabbè. Oppure come chi mi scrive e chi pensa alle vittime dei reati, dei carcerati. Ma cosa c'entra? Come dici tu, Lucadini? Se uno parla di un problema delle carceri, è come se fa finta che tutto il resto del mondo non esista, no? Si può parlare, come che dici tu, si può affrontare un tema all'anno, se no. Gli americani dicono ci sono persone che possono, che riescono solo, diciamo, che stanno camminando, riescono a masticare la gomma. In genere sono gli uomini, ecco. Sono gli uomini. Sono, no, Paola, sono esatto. Gli uomini. In genere è quello che le donne dicono degli uomini, no? Non siete multitasking. Sometimes, vabbè, ma sometimes. Più uomini, meno male che ci sono, dai. Va bene, allora vi faccio sentire il Presidente della Repubblica Napolitano, perché ovviamente tutto, quando si è innescato il dibattito su amnistia e indulto, tutti subito a dire ecco il salvataggio per Berlusconi. Se dopo due minuti non è introdotta la parola Berlusconi, l'italiano si disorienta, non capisce niente, no? Allora Napolitano ha risposto così soprattutto a quelli del Movimento 5 Stelle, che hanno, anche se non li ha nominati, ma si riferiva a loro. Coloro i quali pongono la questione in questi termini vuol dire che sanno pensare ad una sola cosa, hanno un pensiero fisso e se ne fregano degli altri problemi della gente e del paese, vuol dire quelli che dicono così, che non sanno quale tragedia è quella delle carceri, va bene? Direttore, poi insomma si è sentito anche nella voce, tutti i giornali raccontano, era anche abbastanza alterato dal fatto che potesse essere pensato tutto questo per dare una sponda a Berlusconi, Luca, vabbè che... Mi sembra francamente che se il problema fosse solo Berlusconi, ma insomma, forse ci sono altri modi di risolverlo. Trovo veramente un po' offensivo pensare che abbia fatto questa uscita per salvare Berlusconi. Insomma, mi sembra un'ossessione, non lo so. Forse o sono troppo poco scafato io, oppure sì. Veramente... Oppure c'è il retrogusto di pensare sempre in Italia, Paola, sempre a pensare... No, ma meno male che si è alterato il Presidente della Repubblica, che poi alterato nel suo caso, insomma, mantiene sempre lo stile che lo contraddistingue. Meno male che si è alterato. Si alterasse un po' di più spesso, perché basta. Questa mania di vedere sempre un retropensiero in tutto quello che fanno ovviamente gli altri, mai se stessi. Cioè, vabbè, ovvio. Vabbè, intanto arrivano messaggi, c'è chi... Ah, Paola, che sogno! Mi scrive... Gli altri non li leggiamo, quelli che... No, basta, no, quella lì, via! No, no, mi limita anche a me fa sangue la voce della salute. mi fermo qua, vabbè, sono le 6.45, insomma, dopo tutto. Esatto, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo con la nostra segreteria telefonica. Poi guarda che Paola, c'è una copertina di Vanity Fair che... Vabbè, insomma, dai, dopo il traffico. 24 mattino. A tutte le persone che dicono che l'IMU la pagano volentieri. Anch'io la pagherei volentieri se avessi le possibilità. Io abito a Roma, via Appia, quartiere Piazza Re di Roma. Ho una casa di 72 metri quadri. Sa quanto ho pagato l'anno scorso? 800 euro di IMU. Mia sorella, che ha 750 euro di pensione, è invalida all'80%, lei ne ha pagate 900. Noi per quella tassa ci siamo privati di tante, tante cose a cui tenevamo. Ma perché non interviene Berlusconi a salvare l'Italia, lui che ci teneva tanto all'italianità? Faccia lui il cavaliere bianco ora, no? Ciao Alan, inutile milanista, ciao. Alessandro, caro, ma ce l'hai un bagno comodo a Radio 24? Perché ogni giorno leggere quelle notizie che fanno cagare. Caro Alino Milan, io sono un artigiano. Mi meraviglio che continuano a fare delle interviste a questi mascalzoni che stanno in Parlamento e in Senato e che continuano a voler applicare tasse anziché tagliare i loro privilegi. Ma questi si dovrebbero vergognare, ma c'hanno la faccia come il culo, quindi non si vergogneranno mai. Spero solo che gli italiani in massa non vadano più a votare per riscrivere le regole, perché questa gente va cacciata a pedate, questi ladri e disonesti. Oh, un tranquillo e pacato editoriale del nostro artigiano. Siamo con Luca Dini e con Paola Saluzzi. Sai che, Paola, sono uscito alle 5 come di consueto da casa, ho trovato uno in un parco, c'aveva un fiore, ho detto ma che facciamo? E da lì dice Imu non Imu. L'ho lasciato così, ho detto è un altro dei rincoglioniti dell'Imu che non ha capito se questa Imu si paga. Ma vi rendete conto che ieri dovevamo metterla l'Imu per i ricchi? Hanno ritirato l'emendamento dell'Imu per i ricchi. Era drammatica la telefonata della signora di Sì, questo sì. Però voglio dire, il tema come affrontato in Italia, no Paola? Ieri volevano rimettere una parte dell'Imu sì, ai ricchi. Un po' di disordine, disorganizzato. Che devi fare? Tu Luca Dini, questa cosa dell'Imu l'hai capita? Arriveremo a chiudere, a dire una parola fine. Allora, si paga quest'Imu? Non si paga? Si paga per tutti? Non si paga per tutti? Qualcuno? Quelli alti, quelli bassi? Secondo me, allora, la telefonata della signora era drammatica. Detto questo, secondo me la tassa sulla casa, soprattutto chi può e chi ne ha diverse, la deve pagare assolutamente. Lo scandalo in Italia non sono le tasse sulla rendita, che anzi sono state per tanti anni praticamente inesistenti, sono le tasse sul reddito, sul lavoro delle persone. È lì che bisognerebbe scandalizzarsi, non perché chi ha 10 case deve pagare l'IMU. In America la tassa, in America, nel mondo, si paga sì, regolarmente, però la quota di... Il peso su quanto guadagni delle tasse è minore. È chiaro, se guadagni 1000 euro non è che è perché l'azienda ne deve pagare 2000, cioè, ma perché quella differenza, no? Quel famoso cuneo fiscale è minore, rimangono più tasse, più soldi freschi nelle tasche dei lavoratori. Su questo sono d'accordo. Allora, su Vanity Fair, Paola, sai chi ti ritrovi? A proposito di sangue, Raul Bova. Perché... Bello come il sole! Adesso, poi vuoi andare avanti? Nonché persona bellissima. Nonché adesso, a quanto ho capito, disponibile. Luca Dini, disponibile. Fra un po' sì, in che senso? Cioè racconta per la prima volta che è vero quello che si vociferava, cioè come dire, la separazione dalla compagna, moglie, non so se si è sposato. Moglie. È così, e quindi Paola? Beh, allora è un peccato perché lui e Chiara sono stati e secondo me resteranno una bellissima coppia, due persone che si vogliono veramente bene, poi la vita magari ti porta altrove. Ribadisco, lui, sì, tu dici disponibile tra poco, è una persona splendida, Raul Bova, è uno di quei casi in cui sembra banale dire così, è più ancora più bello dentro che fuori. Che fai, ti stai a candidare? No, non mi candido, sono sua amica, per cui non mi candido. No, tra l'altro Luca Dini, è vero che in queste interviste, io l'ho letta così a spizzichi e bocconi, poi la leggerò con più profondità, parla anche delle voci sulla sua omosessualità, e ne parla, no Luca? Sì, lui parla soprattutto, devo dire, la parte che mi ha colpito è quella in cui parla dell'aggressione mediatica che viene fatta senza pensare che lui ha due figli di 12-13 anni. Devo dire, a volte veramente noi giornalisti spariamo delle notizie con totale irresponsabilità verso le conseguenze che procurano a ragazzini che saranno, certo, qualcuno dirà privilegiati, no? Ci sarà qualcuno che telefonerà per dire chi se ne frega, il prezzo del successo, il prezzo della fama. Però il prezzo del successo chi non l'ha scelto, perché è semplicemente è una vita privilegiata, ma ha diritto anche a un minimo di serenità, non sentire andare a scuola e sentire dire tuo padre è gay, tuo padre è un ladro, tuo padre fa questo, tuo padre fa quest'altro, insomma. Ecco, e cosa dice di questo? Lui dice se non sono gay, ma se anche fossi gay non lo direi, questo è il sunto. Ha ragione. Lo forse lo direi o forse non lo direi, dice la cosa che mi fa schifo, dice, mi fa ribrezzo, è che venga usata questa parola come un'accusa, come una macchia alla peste. Ma sì, ma poi io vorrò arrivare in un mondo perfetto in cui a nessuno deve fregare niente di se uno è gay, omosessuale, eterosessuale, ma chi se ne frega. Comunque, insomma, trovate bravo, tutto su Vanity Fair. Mentre tu, Luca, che hai intervistato Francesca Pascale, cioè voi settimana scorsa, oggi fa un'intervista su oggi. Sai cosa dice Paola Saluzzi Francesca Pascale? Sono arrivata a Palazzo Grazioli e qua spendevano 80 euro per un chilo di fagiolini. Ho fatto la spending review, ma minchia, ma 80 euro! Oh. 80 euro? E dove li compravano? Berlusconi fottuto dall'ortolano, 80 euro! Almeno che lo comprassero fagiolini un po' in eccesso, insomma. 80 euro un chilo di fagiolini, manco signora mia, le diamo noi delle indicazioni, esatto, ha fatto bene, no. Ottima spending review. Ma infatti, manco mia moglie si fa fregare così quando va a comprare la frutta, la verdura. Ma adesso, vabbè, con queste critiche, perché abbiamo detto prima che gli uomini camminano e non sanno masticare i chewing gum. Criticoni! Paola, alle tre che fai su Sky oggi? Siamo pronti a parlare di politica, ma anche a ricordare il Vaillant, perché dobbiamo ricordarlo, nella speranza che tutto questo porti a diventare il paese più saggio e a non franare non appena c'è qualcosa. Assolutamente. Grazie Paola Saluzzi, Luca Dini e noi Giornale Radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:19 minuti, pronti a leggere i giornali con voi, cari amici, anche se vi siete aggregati ora e state andando a lavorare o state facendo colazione, benvenuti. E allora vi ricordo di che cosa parleremo più avanti con i nostri ospiti. Ieri ha colpito molto sui giornali il racconto di Roberto Saviano, no? Solo all'estero posso recuperare la libertà, vivere sotto minaccia. Oggi sono molto contento di poter dare la parola ad alcune persone magari dimenticate o che non dicono molto agli ascoltatori. Per esempio Giulio Cavalli, scrittore, attore. Un attore di teatro civile che da anni porta avanti un impegno civile di denuncia di 'ndrangheta. Ancora qualche giorno fa ha subito una minaccia concreta. Le hanno trovato una pistola carica nel giardino e per questo l'hanno anche trasportato in una località protetta. È sotto scorta da anni per le sue denunce di teatro civile contro la 'ndrangheta. Oppure avremo un procuratore che si batte da anni contro la 'ndrangheta, Nicola Gratteri. E ancora avremo un sindaco di Benestare in provincia di Reggio Calabria, Rosario Rocca, che qualche giorno fa ha polemicamente detto mi dimetto dopo che le hanno incendiato per l'ennesima volta la macchina. Ecco, daremo voce tra un'ora a queste persone che concretamente ogni giorno vivono sotto minaccia e ci racconteranno la loro storia. Ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. Questo mercoledì 9 ottobre cominciamo dai titoli. Il Sole 24 Ore, oggi la manovra da 1,6 miliardi sul cuneo piano triennale. Questa è l'apertura. E poi il dibattito che esonderà nei prossimi giorni anche su amnistia e indulto dopo il messaggio del capo dello Stato alle Camere. Napolitano, amnistia e indulto. Questo è il titolo secco del Corriere della Sera in prima pagina. Repubblica, Napolitano invoca l'amnistia. La Stampa, il Colle, valutare amnistia e indulto. Il Messaggero, il Colle, ora amnistia e indulto. Libero, liberi tutti tranne Silvio, Re Giorgio vuole l'amnistia. Il Fatto Quotidiano, ecco l'amnistia di Napolitano, svuota le celle e salva B, cioè Berlusconi. Il Giornale, la giustizia è un cancro, adesso è ufficiale, se n'è accorto anche Napolitano. L'Unità, carceri inumane, ora basta. Il Secolo XIX, il Colle, clemenza per i detenuti. Come vedete, basta carceri, tortura anche per Avvenire. Solo il Manifesto apre su ancora Lampedusa, fare Frontex. E Frontex è il sistema europeo di controllo del Mar Mediterraneo per evitare anche le tragedie come quella che è accaduta la scorsa settimana a Lampedusa. Allora, come vedete, il dibattito è soprattutto su amnistia e indulti. Io voglio partire però da altre notizie in apertura e per il secondo giorno consecutivo Libero, e l'invito è sempre quello di tenere le mani ben salde sul volante se siete alla guida. Libero si concentra sulla cosiddetta regalopoli in Rai, sulla quale ha scoperchiato il quotidiano una vicenda abbastanza inquietante, cioè l'usanza di fare regali di gioielleria, regali anche lussuosi, a ospiti da parte della TV di Stato. Rai, spesi 600.000 euro soltanto in una gioielleria. Oggi Giacomo Amadori su Libero fa la seconda puntata di questa vicenda, che ieri era l'apertura, e racconta: Amadori, c'è un armadio chiuso a chiave al quarto piano della Rai, un mobile anonimo. È quasi abbandonato in mezzo a un corridoio, ma è diventato il simbolo degli sprechi della TV di Stato, quasi l'effigie di una stagione da dimenticare. Infatti, quando gli attuali vertici della Rai lo hanno aperto, sono trasecolati. All'interno vi erano nascosti spille, orecchini, gemelli d'oro, un tesoretto che negli anni è stato utilizzato per distribuire regali a ospiti, politici, amici vari. Ora il direttore generale della Rai, Gubitosi, ha deciso di contrastare questo malcostume. Cosa c'entrano i gioielli con la Rai? Esclamano al settimo piano di Viale Mazzini. Per questo stanno portando avanti in gran segreto, come anticipato ieri da Libero, un'indagine dell'audit interna su questa regalopoli televisiva. Sotto indagine, per esempio, una fornitura di preziosi da parte di una nota gioielleria romana per un importo di 600.000 euro in 4 anni. L'ex responsabile della struttura premi e omaggi è stato sospeso dall'incarico. Contattato da Libero, dice: sono un uomo distrutto, un figlio piccolo, rischio il licenziamento, e poi attacca il telefono. Allora Giacomo Amadori va a trovare il titolare della gioielleria, che ha beneficiato di 600.000 euro in 4 anni. La bottega dell'orefice è al centro di questo intrigo. Il commerciante si lamenta: da gennaio a oggi abbiamo ricevuto commesse dalla Rai per soli 2.000 euro. Ma non produciamo più orecchini o gemelli d'oro da circa 2 anni. E prima? Beh sì, ma sempre per importi non superiori ai 7-8.000 euro per volta. Raramente abbiamo superato i 100.000 euro di ordini annuali. Come raramente 100.000 euro? Ma si lamenta anche. Non ho qui le fatture, ma posso dire che abbiamo iniziato a lavorare con la TV di Stato 20 anni fa e grazie alla meritocrazia. Insomma, Libero insiste: tutti i segreti della regalopoli in Rai con questa inchiesta fanno gli splendidi con i nostri soldi. Un'inchiesta che finisce anche sul Fatto Quotidiano. Daniele Martini, prendendo spunto dall'inchiesta di Libero: ori, penne, cravatte, così le aziende si fanno gli amici. Allarga Daniele Martini il discorso non solo alla Rai, ma all'usanza, dall'ENI alle Poste, la corsa a ingraziarsi politici, giornalisti, sindacati. Anche adesso, forse adesso con la crisi è un po' diverso, racconta Daniele Martini lo straordinario episodio iniziale di quando un regalo rimase negli annali per i giornalisti. Quando un'azienda di sci, ispirandosi magari al mitico comandante Lauro, che per assicurarsi il voto regalava ai napoletani una scarpa all'entrata del seggio e un'altra scarpa all'uscita, i comunicatori di quella società spedirono ai giornalisti uno sci, uno del paio, e il secondo se vi presentate alla conferenza stampa, pensando così di accaparrarsi il pienone di giornalisti. Finì invece in prima pagina questa vicenda, con parole non certo di encomio nei confronti di questa iniziativa per ringraziarsi i giornalisti. Comunque, un'usanza italica, certo, questa della Rai, se confermata anche dall'audit interno, un'usanza coi soldi vostri, nostri, di tutti noi. Allora, cosa sta succedendo ad Antonio Ingroia? E beh, ogni giorno non passa senza una pena nel senso, non nel senso di condanna, ma una pena da portare sulle spalle. L'ultima è un'indagine che è stata aperta nei suoi confronti perché, come raccontano i vari giornali, Nino Amadori, per esempio, sul Sole 24 Ore, pagina 5, avrebbe rivelato ai giornalisti del Fatto Quotidiano ciò che era il motivo e anche il contenuto di un interrogatorio fatto da magistrato a Bernardo Provenzano il 31 maggio scorso. Tutto ciò poi finì sul Fatto Quotidiano, siccome durante questo interrogatorio c'erano presenti Antonio Ingroia, il magistrato Ignazio De Francisci, ma non c'era per esempio l'avvocato difensore della famiglia Provenzano Rosalba Di Gregorio, le notizie finirono sul Fatto Quotidiano. Ecco che adesso la procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo nei confronti di Antonio Ingroia con l'accusa di fuga di notizie. Avrebbe rivelato ai giornalisti notizie sull'interrogatorio fatto a Bernardo Provenzano. Il Giornale fa una pagina intera: crollo senza fine di Ingroia, indagato per fuga di notizie. E Libero anche, ovviamente, ci sguazza: Ingroia l'inquisitore inquisito per aver spifferato al Fatto Quotidiano. Uno, tra l'altro, l'ho cercata sul Fatto Quotidiano la notizia, l'ho trovata anche. All'inizio ho detto, l'ho trovata, pagina 9, eccolo qua, Ingroia, anche il Fatto Quotidiano ne parla. Ingroia ieri a Lampedusa tra i profughi. Ma no, non è proprio questa la notizia. In realtà, se uno va un po' più avanti, a pagina 15... c'è la notizia: Ingroia indagato, sospettato di avere rivelato le notizie pubblicate dal Fatto Quotidiano il 5 giugno scorso sull'interrogatorio del boss Bernardo Provenzano. Anche se Ingroia si difende così, se fosse vero, cioè di questa indagine, sarebbe un fatto gravissimo. Vorrebbe dire che c'è stata una fuga di notizie dalla procura di Caltanissetta, perché al momento non ho ricevuto alcuna informazione. Cioè, indagato per fuga di notizie, dice è una vergogna, c'è una fuga di notizie dalla procura di Caltanissetta. Vabbè, ma è straordinaria! L'indagato per fuga di notizie accusa di fuga di notizie la procura che indaga per fuga di notizie lui. Vabbè. 24 mattino. Eccoci qua alle 7:33 minuti. Allora, il dibattito su amnistia e indulto. Io mi sono arrivato qui in radio e ho detto: no, un dibattito su amnistia e indulto all'italiana non credo di essere in grado di sopportarlo nei prossimi giorni. Ma certamente oggi è il tema su cui aprono tutti i quotidiani. Vi ricordate anche l'ultima volta? Non ricordo, c'era il governo Prodi, comunque, quando fu fatto un indulto con le annesse polemiche al parlamentari e anche in Italia. Ci risiamo perché l'emergenza del sovraffollamento delle carceri, questo è un dato di fatto vergognoso che pone l'Italia a livelli veramente da terzo mondo, e questo è un dato di fatto certamente indiscutibile, soprattutto perché la maggior parte delle persone in carcere, non ci stancheremo mai di dirlo, la maggior parte delle persone in carcere sono in attesa di giudizio, dunque sono innocenti fino a prova contraria, come tutti voi che state andando al lavoro o siete a casa in questo momento. Sono innocenti. Poi magari si fa il giudizio e magari vengono anche dimostrate innocenti, e nonostante ciò si sono fatti un po' di gabbio a gratis, e questa è certamente un'indecenza. Perché il dibattito è stato rilanciato? Perché Giorgio Napolitano ha mandato un messaggio alle Camere, come prerogativa del Capo dello Stato, come peraltro aveva annunciato, come racconta il Sole 24 Ore, pagina 5, con Lina Palmerini, sotto il titolo Il Parlamento valuti amnistia e indulto. Lo aveva annunciato il 28 settembre, nel mezzo della crisi di governo, un messaggio alle Camere sul sovraffollamento delle carceri, dicendo: aspettiamo però che il clima si sia svelenito. Il clima si è svelenito, così ha detto ieri Giorgio Napolitano quando è stato interrogato sul perché, è a Cracovia, perché di questo messaggio. Penso che il clima ora si sia svelenito dopo la fiducia data a Letta. Nel frattempo era stato letto il suo messaggio in aula, in cui si chiedeva la valutazione appunto dell'amnistia e dell'indulto da parte del Parlamento, provvedimenti che devono decidere loro per cercare di risolvere questo problema del sovraffollamento. Erano nate già anche e scaturite le polemiche. Intanto i numeri. Il Messaggero mette la situazione dei detenuti esplosiva, oltre 17.000 sono in eccesso, pagina 3 del Messaggero con Claudio Marincola. L'Europa ci ha sanzionato già per violazione dei diritti umani. Ricordiamo che, ecco, c'è qua anche la cifra, il 42%, dunque quasi la metà, poco meno della metà dei detenuti, sono in attesa di giudizio, cioè non sono condannati che stanno scontando la pena, sono persone in attesa di un processo, in attesa di un giudizio definitivo. Dall'inizio dell'anno sono 121 i morti in cella, di questi 39 sono suicidi accertati. Questa è una fotografia ovviamente per pochi dati delle carceri italiane che c'è sul Messaggero a pagina 3. Questo ha spinto il capo dello Stato a fare questo appello. Devo dire che un endorsement, un appoggio totale tra vari editorialisti mi ha colpito quello di Vittorio Feltri, prima pagina del Giornale. Inutile nascondersi, l'amnistia sa da fare, così Vittorio Feltri. Racconta Feltri, Giorgio Napolitano non si era mai sognato di prendere carta e penna per inviare una lettera ai signori di Montecitorio e Palazzo Madama come messaggio alle Camere. Ieri ha colmato la lacuna e dal nostro punto di vista ha fatto benone a farsi vivo per iscritto, in modo che le sue parole non possano essere equivocate. Ha detto con massima saggezza: è ora di intervenire allo scopo di risolvere il dramma carcerario. Impossibile non essere d'accordo, dice Feltri. Le prigioni patrie sono schifezze inenarrabili, brutte, sporche, male amministrate, teatro di violenze e ingiustizie, luoghi non di espiazione della pena ma attrezzati per la tortura dei detenuti. Chi non le ha mai assaggiate né visitate ignora di cosa stia parlando, di cosa stiamo parlando. La maggioranza dei compatrioti non si rende conto che il nostro paese in materia carceraria è equiparabile a quelli del quarto mondo, cultore dell'inciviltà e della criminalità organizzata dallo Stato nella convinzione che chi abbia commesso un reato meriti di essere trattato come carne da macello. Dunque è impossibile non essere d'accordo con Napolitano, ma abbiamo la certezza che numerosi fessi, deputati, senatori, gente comune, avranno da obiettare: con tutti i guai che abbiamo, ci dobbiamo preoccupare dei delinquenti? Così Vittorio Feltri sul Giornale. Tra l'altro è interessante l'intervista che viene fatta dal Fatto Quotidiano da Silvia Donghia a pagina 4 e parla per la prima volta al prefetto Angelo Sinesio. Chi è? È colui che dal 2012 è il commissario straordinario del governo per le infrastrutture carcerarie. Parla per la prima volta, fidatissimo collaboratore del ministro Cancellieri, lo fa con i suoi 15 collaboratori a fianco e dice Sinesio: il ricorso a amnistia e indulto è una scelta politica. A me cambia poco che vi sia o meno. Bisogna intervenire sul modello carcere per non avere più emergenze, depenalizzando le leggi come la Fini-Giovanardi, quella sulla droga, oppure la Bossi-Fini sull'immigrazione. L'approccio repressivo non ha senso. Bisogna far ricorso a misure alternative, poi ragionare sulla funzione rieducativa dell'istituto di pena, come prevede la Costituzione. In Italia ci sono contenitori nei quali i detenuti sono stipati senza che venga data loro possibilità di reinserimento sociale. Come possiamo pretendere che se uno rimane chiuso per anni in una cella con altre 5 persone senza fare assolutamente niente, una volta fuori non delinqua di nuovo? E poi Sinesio lascia trapelare una possibilità concreta. Io non decido, ma si potrebbero vendere le carceri borboniche. Regina Celi a Roma, San Vittorio a Milano, la Giudecca a Venezia, Lucciardone, Le Vallette, Marassi, Brescia. Ristrutturarle costerebbe molto di più che costruirne di nuove. E poi da questa cifra, pensate che a Milano una bolletta energetica di un anno a San Vittore è di 2 milioni di euro, ma solo perché gli impianti sono vecchi, non perché, come è giusto, ci sia un utilizzo tanto diffuso di energia. Comunque, il futuro: vendiamo le carceri borboniche, questo è il titolo sul Fatto Quotidiano. La polemica ovviamente è scoppiata subito. L'accusa, soprattutto del Movimento 5 Stelle, vuole salvare il Cavaliere. Tutto viene visto in Italia con l'ossessione, o comunque ricondotto, a Silvio Berlusconi. È inutile, non ci libereremo mai da questo riflesso, e quindi questa cosa detta da Giorgio Napolitano, per in particolare il Movimento 5 Stelle, è fatta per salvare Berlusconi. Che cosa c'è nel retroscena pagina 3 di Repubblica? L'ira del presidente: io pro Berlusconi, non sanno quali tragedie nelle celle. E adesso subito il dibattito è lanciato. La Stampa con Andrea Malaguti va a intervistare a pagina 4 il grillino Manlio Di Stefano. L'accusa è questa: voi ve ne fregate della gente? E l'onorevole Grillino dice: Ma è la descrizione del mondo al contrario? Guardi che se c'è qualcuno che pensa alla gente, quelli siamo noi. Non siamo stati noi ad aumentare l'IVA, a mettere l'IMU, a volere gli F-35. Mentre i governi Monti e Letta condannavano il paese alla catastrofe, Napolitano, che da 8 anni spalleggia il condannato di Arcore, non ha aperto bocca. Noi siamo quelli del reddito di cittadinanza, degli stipendi restituiti del fondo per la riduzione del debito. Vi risulta tutto questo? E vabbè, insomma, e così parte la polemica politica. Il paradosso è che il Movimento 5 Stelle dice lo ha fatto per difendere Berlusconi e Silvio Berlusconi dai retroscena della politica come ha reagito? Guardate La Stampa, Ugo Magri a pagina 5, non ha gradito affatto il messaggio di Napolitano. Mi sembra alla stregua di una presa in giro. Ormai non può fare più niente, doveva parlare prima. Silvio non ha affatto gradito il messaggio del presidente. Eccolo qua, anche su Libero l'amnistia è solo fumo negli occhi. E anche il retroscena di Repubblica, il cavaliere ormai non ci spera più. Napolitano poteva parlare prima, Francesco Bei. E ora pensa all'affidamento ai servizi sociali. A proposito di questo, io guardate, la notizia politica del giorno rischia di essere l'intervista di Francesca Pascale su Oggi. Lo dico con grande serietà. Francesca Pascale, la fidanzata di Berlusconi, su Oggi, come riportato da vari giornali, il Corriere della Sera lo riporta, pagina 5, siamo angosciati, non sappiamo più cosa sia il sonno, e su questo sono d'accordo con lei, anch'io effettivamente ho un po' fatica. Sta succedendo tutto insieme, e poi sentite, ho fatto la spending review a Palazzo Grazioli, no, questa... cioè a casa di Silvio, ho fatto la spending review, ma lo sa, dice il giornalista, che arrivavano grandi casse di pesce, quando tutti sanno che lui, il presidente, non solo non lo mangia, ma prova fastidio anche solo per l'odore. E poi questa è insopportabile, ma lo sa che quando sono arrivata a casa Berlusconi pagavano i fagiolini 80 euro al chilo, 80 euro al chilo, ma com'è possibile? E quindi ho fatto la spending review, di Francesca Pascale. 80 euro al chilo pagavano a casa di Berlusconi i fagiolini. Mauro Meazza, buongiorno, ti voglio passare una bella palla. 80 euro al chilo i fagiolini, altro no, che spending review. Scusami, Alessandro, buongiorno innanzitutto, sì, ma sì. Gli 80 euro poi comprendevano l'IVA a che aliquota? Ma no, non lo so, spero con la consegna gratuita a domicilio, voglio sperare, magari 2 euro di mancia anche al garzone che ti porta i fagiolini a 80 euro al chilo. Vabbè. Ma insomma, al netto dei fagiolini, che comunque sono alimentari e quindi non sono interessati, lo sai che noi oggi con il Sole 24 Ore in edicola diamo questo focus, sono 16 pagine per spiegare l'aumento dell'IVA, perché ci sono diversi pasticci, se hai mandato la fattura prima, se mandi la fattura dopo, che cosa devi fare col registratore di cassa, insomma, come sempre quando succedono queste cose è tutto chiaro finché non lo devi fare in qualche modo, quindi noi ci mettiamo 16 pagine per dare una bussola a chi poi se ne deve occupare, non so se poi per comprare fagiolini o può servire anche alla signora Pascale, infatti può prendere nota. Comunque, visto che ha fatto la spending review, mi ha colpito questo. So che oggi sul Sole c'è anche la questione della manovra, no? Arriva oggi la manovrina. Arriva, cioè. Sì, questa prima manovrina, in realtà questa è la correzione per stare al 3%, come sai, quindi dobbiamo correggere per un 600 milioni, che insomma alla faccia della correzione, bisogna anche avere un po' di rispetto del denaro. Quella vera però, quella con lo sconto che aspettiamo tutti, il taglio del cuneo fiscale, quella arriverà con la legge di stabilità, quindi questa è una correzione di rotta quasi solo contabile in qualche modo, o comunque dagli effetti solo contabili. E oggi dovrebbe partire anche il BTP a 7 anni, è importante, lo spieghiamo sul Sole, perché lì c'è anche il tentativo di accorciare un po' la durata del nostro debito, vorrebbe dire in prospettiva andare a pagare un po' meno. Sollievi che arriveranno non sono sollievi immediati, però insomma, quando si vedono degli spiragli positivi, perché non dirlo? Questo ecco, certamente. Pare brutto. No, ma assolutamente. Allora Mauro, io ti ringrazio, ovviamente sul Sole 24 ore trovate tutti questi dettagli, grazie a Mauro Meazza, ti ritroviamo domani. No, io prima del traffico ancora due chicche le devo leggere, ma non quello che mi scrive che fai la rassegna stampa novella 2000, ma che non si può sorridere. E poi è oggi, non è novella 2000, sì, preciso, caro ascoltatore. Su oggi Francesca Pascale ancora dice 3 milioni di euro da dare al mese alla ex moglie Veronica, e qui c'è anche un pochino di gelosia evidentemente che appare. 3 milioni di euro alla ex moglie? In quale paese succede questo senza che ci sia una rivolta di opinione? Una rivolta di opinione. E ancora conclude, insomma, è arrivata lei a mettere ordine. Sono arrivata a casa, ho fatto la spending review, c'era disordine, compravano il pesce quando a lui non piace il pesce, compravano i fagiolini a 80 euro al chilo. Io voglio conoscerlo, quell'ortolano, perché bisogna stringergli la mano, far passare 80 euro al chilo i fagiolini, è una roba veramente esemplare. E conclude in questa intervista Francesca Pascale, insomma, quello che mancava a casa di Silvio Berlusconi era proprio una donna. E tante volte uno pensava che proprio era quello che non mancava, invece Francesca Pascale dice mancava proprio una donna in casa Silvio Berlusconi. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Inutile, non fate tanto gli schizzinosi. Anche pagina 5 del Messaggero, Mario Aiello si esercita nell'articolo sotto il titolo Francesca e quei fagiolini da 80 euro al chilo. Non fate quelli che poi non vi fionderete a leggere proprio quell'articolo lì. Allora, dal punto di vista politico c'è un'intervista interessante al ministro Quagliariello su Avvenire, pagina 6, il PD si liberi dall'ossessione di Berlusconi. Quagliariello è identificato come uno di quelli alfaniani e quindi che ha resistito al governo, e infatti inizia l'intervista ad Arturo Celletti: chi dice che ci siamo dimenticati di Berlusconi lancia un'accusa infamante, la sua vicenda riguarda lo stato di diritto in Italia, quindi riguarda tutti noi. Ancora in vita Quagliariello, il Parlamento a dire, dopo che la Giunta ha avuto un percorso che doveva essere molto più approfondito, perché serie ragioni di merito non sono state prese in considerazione, c'è stata invece una folle e irrazionale rincorsa del PD al Movimento 5 Stelle, ora sembra che qualcosa possa cambiare, ci sono i tempi supplementari in aula a Palazzo Madama, non perdiamo l'occasione, proviamo ad affrontare nel merito la questione. Insomma, fa capire Quagliariello, la vicenda decadenza Berlusconi non è ancora finita. Allora l'IMU, come si sapeva, era una butad, l'emendamento del PD che pensava di reintrodurre parte dell'IMU anche sulla prima casa per alcune persone è stato ritirato. Insomma, IMU non IMU, IMU non IMU, IMU non IMU, mai si scartano così le margherite, si tolgono i petali delle margherite per cercare di capire che succederà. Staremo a vedere. Mi ha colpito molto questa notizia di cronaca che c'è su tutti i giornali, è un'indagine dell'Ocse. Italiani, siamo un popolo di ignoranti. Questa è la verità, di nuovi analfabeti. Questo è il titolo di Repubblica, per esempio. Oppure il Corriere è molto più esemplificativo. Non sappiamo né leggere né contare. Siamo in una classifica stilata dall'Ocse sugli adulti, non sugli studenti, sugli adulti, all'ultimo posto, all'ultimissimo posto. Il Giappone, in confronto come competenze linguistiche, secondo alcuni parametri che non vi sto a spiegare, a 296, la Finlandia a 287, l'Olanda, l'Australia, la Svezia, noi arriviamo a fanalino di coda 250, non sappiamo leggere, siamo ultimi nell'apprendimento della lingua, quindi l'italiano, e penultimi nell'apprendimento della matematica. Quanto è vero, cari italiani, quanto è vero. Io sono il primo di cui prima ho detto a gratis, e subito mi scrivo, non si dice a gratis, si dice gratis, vabbè, quindi sono il primo, magari nella fretta, nella foga o comunque nell'ignoranza, anch'io mi ci metto, ma voi non sapete, cari ascoltatori, quanta gente scrive qual è con l'apostrofo, quanta gente non sa dove si mette l'apostrofo, se un altro è con l'apostrofo o un'altra è con l'apostrofo, e queste sono alcune delle cose, in realtà i congiuntivi non ne parliamo. Comunque, l'OCSE ha certificato, siamo un popolo di nuovi analfabeti, non sappiamo, non conosciamo la lingua. Anche sul Messaggero a pagina 12, gli italiani non sanno contare né parlare. E siamo al momento finale, quello della chiusura della rassegna stampa con il premio La Carta Costa. Oggi siamo sul giornale dove stravince la nostra amica Eleonora Barbieri il titolo di una pagina per una ricerca. Queste ricerche, poi bisognerà fare una ricerca sulle ricerche inutili. Ma quale senso di colpa? L'inganno ci fa stare bene. Oh, è stata fatta una ricerca che ha scandalizzato il New York Times, e invece in Italia è stata presa, patria dei furbetti, in maniera positiva. Uno studio dimostra che i comportamenti disdicevoli non solo non creano rimorso, ma anzi producono soddisfazione. Copiare il compito in classe, saltare la fila, ritoccare la nota spese, scaricare da internet in modo illegale, non pagare il biglietto sui tram, i treni. Hanno fatto una ricerca per dire: fare tutte queste cose non è che ti fa sentire male, anzi, ti fa sentire bene. Ah, che bello truffare, che bello, sono più furbo degli altri. Al New York Times invece si sono scandalizzati. Ma come? Questa ricerca dice che rubare fa bene, e invece essere furbi in Italia? Oh, finalmente potete fare tutto questo, cari italiani, e sentirvi pure bene. Ma amici del giornale, ma che messaggi date? E poi soprattutto, non ve lo ricordate il messaggio principe? Che la carta costa mezza pagina per dire che truffare fa stare bene. Oh, che bello. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, ha colpito molto, a me ha colpito l'appello che ieri Roberto Saviano, scrittore che da anni vive sotto minaccia della criminalità organizzata, ha fatto davanti ai giudici del processo contro i boss casalesi che da anni lo minacciano e lo costringono a questa vita blindata. Ha detto Saviano: solo all'estero sarò libero. Certo, forse Saviano è il simbolo più celebre di quel giornalismo di denuncia che poi si è ritorto contro il protagonista, no? E conosco anche le argomentazioni di chi dice: ma insomma, Saviano ci marcia, ma Saviano è diventato milionario, ma cosa vuole? Ha ottenuto fama, successo, eccetera, di cosa si lamenta? E vabbè, ma in realtà di persone che vivono quotidianamente sotto minaccia e che sono spesso trascurate o addirittura viste come un peso da quello stesso Stato dalla cui parte hanno dimostrato di stare senza se e senza ma, ce ne sono tantissimi in Italia. Io oggi qui a 24 mattino sono contento di poter dare spazio ad alcuni di loro per quello che serve, a cominciare da un sindaco della Locride, non so se lo posso chiamare ancora sindaco dimissionario, si tratta di Rosario Rocca, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. La posso chiamare ancora sindaco, di fatto lei lo è? No, diciamo che sono dimissionario, ma ormai da qualche giorno, non sono passati ancora i 20 giorni che rendono effettive, non credo, le dimissioni, comunque sono mi sento dimissionario. Dimissionario a tutti gli effetti. Sindaco dimissionario di Benestare, siamo in provincia di Reggio Calabria, quanti abitanti? 2500. 2500. È un piccolo comune dell'entroterra reggino. Lei ha preso carta e penna, su Facebook ha postato una foto con la fascia da sindaco, ha scritto al capo dello Stato, a tutte le massime autorità, a dire: dopo l'ennesimo atto di intimidazione, in questo caso era l'auto bruciata, la sua auto bruciata, ha detto: io qua mi sento abbandonato. Così ha fatto. Sì, diciamo, dopo aver rassegnato le dimissioni, dopo aver protocollato la lettera agli uffici comunali, l'ho postato su Facebook, così come ho fatto sempre. Diciamo che Facebook è stato per me sempre un veicolo importante di informazione con cui abbiamo io e gli altri amministratori dato diffusione anche a tantissime iniziative fatte. La scelta di Facebook non è diciamo da considerare un fatto straordinario. No, vabbè, ma infatti l'utilizzo di Facebook in questo è chi se ne frega, cioè non è tanto lo strumento. Ma lei sì. Lo ha fatto perché? Ha denunciato, perché ci si sente abbandonati a fare il sindaco a Benestare, che può essere il simbolo di alcuni paesi dove la criminalità organizzata, immagino, si fa sentire? Guardi, la Locride, che è appunto il territorio mio di riferimento, dove opero, dove faccio il sindaco, per stare in comune della Locride, è un territorio complesso, difficile, dove far affermare anche un principio di legalità amministrando, governando un territorio è un esercizio veramente, veramente difficile, un'impresa ardua, sì. Si deve. E questo non solo per la presenza dell'andrangheta, della criminalità organizzata, non solo per i fenomeni criminali che comunque rendono difficile ogni tentativo, ogni volontà di cambiamento, ma anche per la tragica assenza delle istituzioni democratiche che non tutelano come dovrebbero gli amministratori e i cittadini onesti. Cioè lei dice proprio guardi, l'assenza dello Stato, l'assenza, quindi colpiscono... Sì, purtroppo io sono arrivato a questo atto estremo di dimissioni perché ho percepito, ho toccato con mano l'isolamento, l'abbandono di questo territorio. Quando l'unico presidio dello Stato su un territorio deve essere rappresentato da un sindaco, cioè non è più possibile, un sindaco non può essere lo Stato da solo. No, io da solo. Non parlo dello Stato come un'entità diversa, lontana da me, lontana da No, è chiaro, però lei dice gente. Non può essere solo la fascia tricolore non che io indosso simboleggiare lo Stato. Tra l'altro, Rocca, le voglio presentare un'altra persona, si tratta di Giulio Cavalli, che saluto. Cavalli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, Giulio Cavalli è uno scrittore, attore, autore teatrale, famoso blogger, è stato anche consigliere regionale in Lombardia, uno di quelli che quando nel 2006, se non sbaglio, Cavalli ha fatto uno spettacolo intitolato Dout Des, nel quale ridicolizzava un boss e faceva nomi e cognomi, da allora ha una vita, come dire, blindata. Io so che solo pochi giorni fa l'ultimo avvertimento, una pistola carica ritrovata vicino a casa sua. Ma è solo stato uno degli ultimi avvertimenti. Senta, le chiedo, Cavalli, lei è stato anche accusato, lo dice lei stesso, di dire di voler fare il Saviano, cioè di volere, come dire, chiedere protezione. Ci spieghi che cosa vuol dire vivere sotto minaccia per il lavoro che lei ha fatto? Ma c'è un problema, secondo me, un po' di sviste, di daltonismo da questo punto di vista. In questo paese siamo molto affezionati alle conseguenze, quindi scorte, blindature, che sinceramente, se ci pensiamo, sono un contratto tra il tutelato e lo Stato e molto poco delle cause, molto meno delle cause. E dopo così tanti anni io mi sono un po' stancato di raccontare che cosa significa vivere sotto scorta in un paese in cui ha magistrati in prima linea che tutti i giorni rischiano e sono in frontiera e avere così poca occasione, se vogliamo, invece di raccontare ciò che ci ha portato qui. Certo, il perché. Perché? Perché lei è stato definito, per esempio, da un pentito dell'Andrangheta, che ha rivelato anche un piano per eliminarla fisicamente, uno scassaminchia. Uno scassaminchia per l'Andrangheta, ovviamente. Che è il complimento più bello che abbia mai ricevuto, anche tra tutti i critici teatrali. Sì, ma diciamo che dal punto di vista della lotta alla criminalità organizzata c'è un aspetto che è prettamente giuridico e militare, e poi c'è un aspetto di informazione. Noi siamo un paese che ha sempre avuto grandi informatori, ora io non mi metto tra questi, per carità, penso, non so, ad Antonio Nicaso, che a livello internazionale è uno che sull'Andrangheta è una delle voci più riconosciute anche negli Stati Uniti o da altro. Ognuno informa secondo le proprie corde, le proprie sensibilità. La mia è quella di utilizzare a volte, non sempre, però il sorriso. e quindi cercare di provare a raccontare a queste persone che c'è anche un risveglio civile, oltre che semplicemente di indagini. E perché queste persone si sono arrabbiate nei confronti suoi, per esempio? Cosa ha detto lei? Cosa ha portato alla luce che non doveva essere portato alla luce, secondo il loro punto di vista? Abitavo in una regione in cui sembrava che la criminalità organizzata fosse questione al massimo della Boccassini e di qualche due o tre suoi collaboratori. La Lombardia, sì. La questione antimafiosa sembrava che doveva essere rinchiusa nei convegni. Quando abbiamo avuto la possibilità di andare in giro per le piazze, nei teatri, e sui libri, negli articoli invece, di cominciare ad illustrare, a fare memoria, esercitare memoria, che quella stessa regione aveva un'aula bunker così identica come quella che nel nostro immaginario conosciamo a Palermo, che le famiglie che operano in Lombardia sono le stesse famiglie da due o tre generazioni. Abbiamo provato a dire alla mia generazione di 35 anni che i nostri padri forse sono stati un po' sonnolenti, e che non si poteva più permettere agli stessi cognomi di pascolare prima nell'eroina, poi nella cocaina e oggi in alcuni cantieri, grandi palle. E tutto questo ovviamente a qualcuno non è piaciuto. Che effetto le fa sentire un sindaco, in questo caso Rosario Rocca, da Benestare, che dice: io non posso essere l'unico presidio dello Stato, certo sono il primo cittadino, lo Stato non è una cosa lontana da me, ma non posso essere l'unico, a questo punto mi sento abbandonato e mollo anch'io. Io appena ho letto della sua storia ne ho scritto subito, infatti, perché ogni tanto capita a lui come sindaco, è capitato a me, devo dire la verità, sia nelle mie vesti di consigliere regionale, sia nelle mie vesti ogni tanto di scrittore o di attore, che di avere intorno qualcuno che gli dà una pacca sulla spalla e la propria missione, quando invece ha nelle sue disponibilità, parla soprattutto a livello istituzionale, ben altro. Qui non abbiamo bisogno solo di protezione armata, questo è il meno, qui abbiamo bisogno di avere sempre la sensazione che il nostro interesse antimafioso sia convergente con quello delle istituzioni. Non penso che sia. C'è l'idea di sapere che quello che raccontate, che dite, che denunciate non siano parole vuote, da pacca sulla spalla e via. Però è interessante questo. Rosario Rocca, lei ha ricevuto che tipo di reazione? Pacche sulle spalle, frasi di circostanza o nemmeno quelle, magari, Rocca? Ma io, innanzitutto, ho ricevuto una grandissima manifestazione di solidarietà della mia gente, che non mi aspettavo, perché non è una solidarietà di circostanza, di pacche sulla spalla. Guardi, in questi giorni ho ricevuto visite di vecchiette che venivano a casa piangendo per chiedermi di non lasciare, di rimanere vicino alle loro sofferenze, perché questa è terra di sofferenza, di problematiche. Le dico con sorpresa, perché non mi aspettavo proprio l'intensità di questa vicinanza. Tanto è vero che non posso e non riesco ad esserne indifferente. Ho deciso di mantenere fermo la mia scelta, malgrado questa vicinanza che mi è stata espressa, ma sto cercando anche di far capire ai miei cittadini che è una scelta dolorosa ma necessaria. Sì, poi accanto alle manifestazioni di solidarietà dei miei cittadini si aggiungono anche quelle delle istituzioni, di una buona parte della politica, della Presidente della Camera, devo dire che si è distinta non solo per la frase o la telefonata di circostanza dovuta, ma sta cercando di essermi vicina con la concretezza. Però mi sembra di capire che lei dice: questo non mi fa recedere dalla mia posizione. Tra l'altro, facciamo così, perché così vado in pubblicità, riprendiamo proprio con voi. Si unirà anche un procuratore, che è il procuratore Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica al Tribunale di Reggio Calabria, uno che da tantissimi anni, perché la conosce dal di dentro, la vive quotidianamente, combatte l'Ndrangheta. C'è questa domanda che per esempio mi pone un ascoltatore via SMS: perché Napolitano non si preoccupa di questi personaggi che sta intervistando? Napolitano per esempio ha incontrato Giulio Cavalli qualche anno fa, vorrei capire, vorrò capire ripartendo da qui, se davvero da parte di Rosario Rocca, da parte di Giulio Cavalli, è la sensazione di sentire pacche sulle spalle e poi vabbè andiamo avanti, occupiamoci altro, o se davvero c'è il senso che lo Stato nelle sue istituzioni più alte sia davvero a fianco a persone che ogni giorno rischiano, oppure non è così. 24 mattina. E allora alle 8:38 minuti, storie, stiamo raccontando le storie, stiamo facendo sentire le voci di chi in maniera aperta da anni denuncia o come Giulio Cavalli l'Ndrangheta e per questo deve vivere una vita blindata, oppure il sindaco di Benestare Rosario Rocca, sindaco dimissionario perché ha avuto l'auto bruciata lui pochi giorni prima, la sorella, e che però ci sta dicendo manifestazioni di solidarietà le ho ricevute dalla gente. Vorrei sentire gli ascoltatori. Michele da Monza. Michele, buongiorno. Michele, mi sente? Andiamo a Venezia, da Giorgio. Venezia, Giorgio. Sì, salve. Dica. Senta, io volevo dire una cosa. Effettivamente il problema delle carceri è un problema sentito e le persone, le carceri sono sovraffollate. Il problema è che Napolitano e le istituzioni, dicendo di svuotare le carceri con provvedimenti come amnistia e indulto, sì, sì, non fanno altro che aumentare il senso di impotenza dello Stato. Non c'è certezza della pena in Italia e quindi è normale che poi i cittadini si sentano abbandonati. Quindi, cioè, Giorgio, scusi, perché lei lega la vicenda dell'amnistia e carcere? Se vuole ne parliamo, ne parlate nella segna stampa con il tema di oggi. Perché lo Stato è assente, lo Stato, i delinquenti, non riesce a mantenerli in carcere, a punirli, e quindi i delinquenti si sentono in diritto poi di effettuare anche questi, come si dice, questi atti intimidatori, queste cose contro queste persone, perché sanno comunque che prima o poi usciranno. Insomma, il senso di insicurezza, lei dice, esatto, Giorgio, questa cosa. Grazie, vorrei. Allora, Monza l'abbiamo ripristinato. Michele, mi sente, Michele? Sì, eccomi qua, buongiorno. Ecco, dica. Niente, io ho una cosa, penso, molto semplice, molto così, che fosse all'occhio di tutti, no? È quella di dire, ma dobbiamo piantare, no? Di continuare a fare anche tutte queste fiction, no? Su questa gente che alla fine sembrano quasi degli eroi. E questa situazione qua può creare anche delle situazioni in cui uno si emula, no? Guardi, è un tema molto interessante, Michele. Le offro la risposta di Giulio Cavalli. Insomma, Giulio Cavalli, non bisognerebbe, dice Michele, anche raccontare attraverso le fiction. Lei lo fa attraverso il teatro civile, attraverso la scrittura. Comunque, non dare troppo risalto a queste figure. Come risponde a Michele Cavalli? Ah, io sono d'accordo. È una questione su cui da tempo mi confronto, ne parlo. Esiste anche un reato di favoreggiamento culturale alla mafia, se vogliamo, che non è un reato penale ma è un reato etico, no? Cioè quello di alimentare una certa fascinazione, seppur negativa, su personaggi che ogni volta che vengono descritti con spigoli suoi eroici, pur con tutta la loro drammaticità, in realtà vanno ad alimentare il proprio onore. Concordo quindi su una sorta di anti-racket culturale che va, punti soprattutto sul disonore, quindi raccontarli per quello che sono. Quindi raccontarli, sì, raccontarli in realtà, le dice sì, però raccontarli magari non con quest'aura eroica come a volte appare in alcuni film, come a volte appare in alcune fiction, ma raccontarli magari come denuncia, punto e basta. Anche perché così sorge spontanea la domanda, vista poi la caratura umana e intellettuale di alcuni dei boss che hanno spaventato per di più negli ultimi anni, viene naturale pensare, rendersi conto che ci sono delle collusioni, dei pezzi estremamente superiori in realtà che le accompagnano. Io vorrei salutare Nicola Gratteri, buongiorno procuratore Gratteri, buongiorno. Eccoci qua, insieme a lei c'è Giulio Cavalli, certamente conosce la sua storia, sì, così sì, come Rosario Rocca, sindaco dimissionario di Benestare in provincia di Reggio Calabria. Ecco, il sindaco che la ascolta dice, è chiaro che lo Stato non è una cosa diversa da me, io lo sento profondamente all'interno della mia figura da sindaco, ma non posso essere io, sindaco isolato, l'unica persona che rappresenta lo Stato, perché questo non è, è uno stato di abbandono, è una situazione di abbandono se sono solo io con la mia fascia tricolore a rappresentare le istituzioni. Cosa può dire lei, da procuratore che da anni si batte dal punto di vista criminale contro l'Andrangheta, a un sindaco che dice io mollo perché non ce la posso fare, non posso essere l'unico? Guardi, intanto non penso che il sindaco di Benestare sia l'unico e solo lasciato contro la mafia, o che lui sia l'unico che combatte la mafia. Io da 26 anni sono in magistratura e sono uno specialista nella lotta all'Andrangheta, perché da 26 anni faccio lotta all'Andrangheta, in particolare da Monasterace a Merito Porto Salvo, quindi conosco bene la fascia ionica e la provincia di Reggio Calabria, dove abbiamo negli ultimi anni, ma da sempre, arrestato ogni anno centinaia e centinaia di mafiosi, sequestrando beni per milioni di euro. Ora, è ovvio che non abbiamo gli uomini e i mezzi per mettere 100 carabinieri a Benestare, e non servirebbero, perché noi abbiamo detto sempre che per combattere le mafie bisogna cambiare quattro cose sostanzialmente: bisogna cambiare la scuola, cioè creare cultura, fare una scuola a tempo pieno dove la mattina si insegna l'italiano, la storia, la geografia, la filosofia, la matematica, e il pomeriggio si insegna ai ragazzi a come vedere un film, si insegna a leggere un libro, si insegna a fare le cose che durante il giorno, e quindi non trasformare intanto le scuole in progettifici dove la mattina si fanno solo progetti, perché poi magari a fine anno a quella scuola si danno 500 euro per quel progetto. E poi cambiare i codici penale, procedura penale, ordinamento penitenziario, in modo che non sia conveniente delinquere. Detto questo, è ovvio che emerge subito la coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. Ognuno di noi deve essere valutato e giudicato non in base a ciò che dice, ma in base a ciò che fa. Quindi io sono pronto ad assumermi le responsabilità e le critiche per quello che magari non ho fatto come magistrato, come pubblico ministero, come procuratore della Repubblica aggiunto antimafia sulla Ionica, ma non penso che il problema sia solo la magistratura o le forze dell'ordine. Io dico che spesso gli attentati che possono avere i pubblici amministratori, che sono tanti, perché la mafia purtroppo in noi, l'Andrangheta, è ancora molto forte, in particolare nella provincia di Reggio Calabria, evidentemente non siamo stati tanto bravi a contrastarlo, evidentemente non abbiamo gli strumenti normativi per farlo come vorremmo, sì, o come più volte abbiamo detto. Però vede, molte volte gli attentati a pubblici amministratori possono accadere anche per fatti dove l'Andrangheta non c'entra. Possono accadere anche, non è ovviamente il caso del sindaco di Benestare, ci mancherebbe, però vede, molte volte la politica fa affari con l'Andrangheta, molte volte la politica va a chiedere voti all'Andrangheta. Chiaro. Prima delle elezioni, e poi è ovvio che l'Andrangheta chiede il conto, e quando non si rispettano i patti l'Andrangheta si arrabbia, perché gli andranghetisti, nella loro logica criminale, nella loro filosofia criminale, non sono dei pazzi, intanto meno non sono degli sciocchi. Chiedono, e quando non ottengono poi si fanno… Si arrabbiano. E poi è ovvio che tutto ciò che accade in provincia di Reggio Calabria non è solo 'Ndrangheta, cioè molte volte dei fatti reato vengono fatti passare per azioni di 'Ndrangheta, ma l'Ndrangheta non c'entra nulla. Però, ripeto, quindi lei ha detto che non si tratta del caso di cui stiamo parlando. Ci mancherebbe. No. Intanto io non ho il fascicolo, il caso del sindaco di Benestare, lo sto trattando la procura di Locri, altrimenti non ne avrei parlato. Però quindi io non voglio e non posso dare una valutazione, fare un'analisi sul fatto di Benestare, perché non è mia abitudine parlare delle indagini che fanno gli altri e che faccio io. In genere io parlo un minuto dopo degli arresti su una determinata indagine. Però voglio dire, cogliamo l'occasione per incominciare ad essere molto più attenti e più rigidi, cerchiamo intanto di parlare di coerenza tra ciò che diciamo, cioè il sindaco dice di essere solo a Benestare, sì. Il sindaco deve dire oggi, adesso, cosa gli manca, cosa vorrebbe da parte della magistratura, da parte delle forze dell'ordine, in base alla tipologia di reato che ci sono a Benestare. Ce lo dice tra un attimo dopo il traffico, perché le domande sono molto concrete e il suo intervento è stato molto efficace, procuratore Gratteri. E tra l'altro il sindaco è un maestro di scuola elementare, quindi anche sul tema scuola che le ha toccato, tra un attimo dopo il traffico le risponde il sindaco. Allora, Rosario Rocca, ha sentito Gratteri dire, a parte che non tutti gli attentati sono riconducibili nell'Ndrangheta, e poi perché lei si sente solo, in che cosa concretamente? Allora, intanto io sposo in toto il ragionamento del dottore Gratteri, che saluto e che ringrazio per il contributo che dà alla nostra terra. Io non parlavo di assenza dello Stato solo in materia di contrasto alla criminalità, non parlavo solo di magistratura o di forze dell'ordine, anche se diciamo che da 2 anni che io e la mia amministrazione abbiamo denunciato più atti intimidatori, ma il problema non è questo. Il dottore Gratteri giustamente parla di scuola pubblica ed è da qui che dobbiamo partire. Quando su un territorio come il nostro, difficile e complesso come abbiamo detto prima, le scuole, le classi chiudono in base a dei parametri numerici, cioè il Ministero dell'Università considera i nostri ragazzi e i nostri bambini dei numeri, la scuola pubblica viene meno con le pluriclassi, con quegli accorpamenti assurdi di più classi in una, che sono la negazione alla scuola pubblica. Quindi come possiamo parlare di contrasto alla criminalità senza una scuola pubblica efficace, efficiente? Quindi lei dice in questo soprattutto manca lo Stato. Lei dice manca lo Stato soprattutto in questo, per esempio nella scuola pubblica che non funziona, più che nella mancanza fisica di persone che non si vedono, di forze dell'ordine, di magistrati. Non è un problema di militarizzazione del territorio. Io l'ho detto anche alla Presidente della Camera, che chiedendomi se avessi bisogno di più protezione, io ho risposto: qui l'esigenza immediata è quella di avere un maestro elementare, perché abbiamo la seconda classe e la quinta accorpate ingiustamente, perché ci sono 19 allievi con un disabile in una classe, proprio in funzione del ragionamento che faceva il dottore Gratteri e che condivido, perché questo è il nostro problema. Io ho detto: ci serve un maestro elementare, lo Stato è assente e basta vedere le nostre strade, basta vedere la viabilità di questo territorio, le strutture che mancano. Ma noi partiamo dalla scuola pubblica, che è l'elemento essenziale per un percorso di cambiamento, per un discorso di contrasto alla criminalità. Poi io non lo so, saranno gli inquirenti a stabilire se si tratta o meno di 'Ndrangheta negli episodi che mi hanno visto vittime il mio comune, diciamo, perché poi hanno tentato di incendiare quella notte anche i mezzi comunali. Però se non si tratta di 'Ndrangheta intesa come organizzazione criminale, si tratta comunque dell'altra faccia della medaglia. Questo certamente. Mafiosa. Però questo è interessante. Combattere. Procuratore Gratteri, le piace di più il discorso impostato, come fa il sindaco, a dire non è una questione di uomini, è una questione di, per esempio, avere un maestro elementare per evitare l'accorpamento della scuola. In questo è anche lo Stato o la mancanza dello Stato. Ha detto una cosa importantissima e vera che io sottoscrivo. Negli ultimi anni sono state fatte delle modifiche dal Ministero dell'Istruzione incredibili, cioè ci sono i accorpamenti di istituti, 1500 alunni, un solo preside che si deve muovere su 4-5 comuni e un preside, un preside che ha fatto, che oggi si chiamano dirigenti scolastici, perché in Italia ogni 3-4 anni si cambia il nome della persona, ma gli fanno fare le stesse cose, quasi una presa in giro. Allora, il dirigente scolastico che ha fatto per una vita il preside delle scuole elementari, viene mandato, gli viene accorpato un liceo classico, un liceo scientifico, un liceo artistico, o viceversa. Poi ci sono delle, in Calabria, pensi che c'è stato il concorso nazionale per presidi, per dirigenti scolastici. In Calabria hanno vinto il concorso 100 dirigenti scolastici. Ebbene, di questi 100 si è preferito lasciare le scuole con applicazioni di non presidi, di non dirigenti scolastici a dirigere la scuola pur di non chiamare questi 100 dirigenti scolastici vincitori di concorso. Ci sono dirigenti scolastici attualmente che fanno 50 chilometri, hanno accorpato scuole distanti l'una dall'altra 50 chilometri. Questo è anche il problema proprio di uno Stato raccontato così. Io, Giulio Cavalli, vorrei tirare un po' le fila di questo discorso. Era rimasta la domanda in sospeso che io avevo lanciato, cioè dell'idea le istituzioni. Lei è stato ricevuto anche da Giorgio Napolitano, dal capo dello Stato, ma sono quelle pacche sulle spalle di cui faceva riferimento prima, cioè ne riceve tante da questo punto, ma poi concretamente non sente le istituzioni davvero alle spalle? Oppure mi sbaglio? Ha ragione secondo me il procuratore Gratteri, qui il problema è uscire dai personalismi, quindi pensare allo Stato che dà o no protezione e invece cominciare a pensare ad uno Stato che prende le decisioni, che costruiscono un futuro e una potenza di fuoco, lo dico nel senso culturale del termine, contro la criminalità organizzata. Da questo punto di vista mi chiedo se ha fatto più male il boss in Lombardia che faceva riferimento all'Andrangheta o l'assessore regionale che è andato a cercarne i voti. Cercare di provare a ripesare i comportamenti e capire le responsabilità da tutti i punti di vista. E questo è certamente la domanda per me, anche con una risposta retorica con la quale però mi fermo perché il tempo è scaduto. Ci sarà spazio però, perché mi piace proseguire su quest'onda, e ci sarà spazio per potervi reinvitare, spero presto. Ringrazio Giulio Cavalli, ringrazio Rosario Rocca, ringrazio Nicola Gratteri, pubblico ministero e procuratore Reggio Calabria. Potete riascoltare tutto su radio24.it come al solito, potete seguirmi anche su Twitter, Alino Milan sono io, e su Facebook ci siamo così, 24 mattino. E che dire, l'appuntamento con tutta la redazione, quindi Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi e il nostro alpino Peter Bescapè, regia, è rinnovato a domattina puntuale alle 6.30, noi siamo qui. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.